Era Laura Gerd con quest'ultimo lavoro uscito di recente, Ritz and the Revelation, e come, dove sono tutte musiche sue, appunto intrecciate anche con echi tradizionali, a parte appunto questa St. James Infirmary che appunto rivela anche questa intenzione di trovare una chiave d'unione, un punto d'unione tra due culture diverse, diverse ma integrate tra di loro. Su questo stesso tema, diciamo, su questo stesso obiettivo, è uscito di recente un inedito veramente prezioso, un inedito di Mike Westbrook, della sua orchestra, con una registrazione live però fatta dalla BBC nell'80, di uno dei lavori, dei progetti ritenuti da molti, molti critici, una delle punte massime, The Cortege. E indubbiamente è un lavoro straordinario, ma questo è interessante vedere intanto l'importanza, ribadire l'importanza che ha avuto l'orchestra di Westbrook per la storia del jazz inglese e del jazz orchestrale europeo, perché dalla metà degli anni 60 a Londra, che sono confluiti un po' moltissimi musicisti da tutte le parti del mondo, Londra era diventata appunto il punto di riferimento della musica in generale, con la nascita del rock inglese, quindi dai Beatles, Rolling Stone e tutto il resto, ma anche con diverse orchestre, ad esempio Chris McGregor dal Sudafrica, con tutti i suoi musicisti sudafricani, ma poi anche Mike Gibbs dalla Nuova Zelanda, che veniva appunto a cercare di esprimere le proprie competenze musicali e appunto di compositore, di arrangiatore a Londra. Ma anche Kenny Wheeler dal Canada, che si ferma a Londra e dà anche prova non solo di essere un ottimo trombettista, ma anche un ottimo arrangiatore e scrittore per orchestra, conduttore d'orchestra. Poi in Inghilterra ce ne sono diversi di musicisti, penso per esempio a John Sarman, che oltre a essere un nuovo talento emergente del sassofono, specialmente il baritono a quel tempo, ma anche appunto Mike Westbrook, che proveniva, probabilmente il più anziano poi di questa schiera, proveniva da una preparazione accademica piuttosto importante e dà vita a questa sorta di orchestra palestra, elaborazione di esperienze, dove raccoglie intorno a sé molti dei talenti di quel periodo, ma poi continua la sua strada e anche negli anni 70 poi ha avuto modo di maturare in maniera più significativa. Qui alla fine degli anni 70 è sicuramente arrivato al culmine della sua maturazione artistica e questo progetto gli fu commissionato per un festival del jazz nel 79 e lui presenta questo progetto, che aveva come intenzione quella di ricercare, prendendo a pretesto un funerale di New Orleans, prende a pretesto questo tema, questa come dire, condizione emotiva, per poi inoltrarsi in una ricerca di linguaggio che declina vari stili diversi, sempre nell'intenzione di recuperare le radici di un jazz internazionale. Il risultato prende seguire questo progetto ci sono composizioni musicali sue diverse, poi vengono anche presi testi soprattutto da Kate Westbrook, la moglie, cantante e anche, come dire, musicista di corno tenore. I testi sono artisti, poeti, penso per esempio a Federico García Lorca, che ha una parte molto rilevante nel progetto, ma anche Rimbaud o Herman Hesse e poi William Blake, fino anche a Gioacchino Belli, incredibile anche questa scelta, come si va nella poesia italiana per cercare certe affinità con linguaggi jazzistici particolari. E È stato un successo nel festival, ma poi ha continuato Westbrook. Praticamente la sua attività è diventata una sorta di orchestra itinerante per tournée dopo tournée, dove ha elaborato costantemente, aggiungendo, togliendo o integrando questo progetto, questo cartage. Ci ha messo molto tempo a decidersi ad inciderlo. È interessante vedere come il festival è stato nel luglio del 79, la prima, diciamo, di presentazione, e il disco è stato registrato nel marzo dell'82, quindi quasi 3 anni dopo. E anche, come dire, molto diverso quello che si è ascoltato nella registrazione dell'82 con quello che è invece la testimonianza di questo concerto registrato appunto dalla BBC. Molto interessante e a mio avviso decisamente straordinario, veramente una pagina musicale straordinaria. E anche più intensa per quanto, almeno, l'ho preferito alla versione dell'82. I musicisti che si incontrano sono, vabbè, un po' più o meno tutti quelli che hanno accompagnato Westbrook per tanti anni. E, naturalmente la Kate Westbrook, la cui voce tra l'altro suggerisce un'interpretazione vicina a Kurt Weill, ecco, quindi pienamente inserita nella cultura europea questa rilettura jazzistica. E poi alla voce, un altro incontro straordinario che era accaduto un paio d'anni prima è l'incontro con Phil Minton, un trombettista ma con capacità vocali drammatiche, tremende e incredibili. Qui dà prova di una teatralità vocale veramente da brivido a mio avviso, nella lettura appunto di questi testi di García Lorca, ascolteremo poi nel brano. Poi anche altri cioè l'importanza di Chris Hunter al sax contralto, oppure anche naturalmente Lindsey Cooper che è stata un oboista, e poi anche ai sassofoni, ma soprattutto l'oboe, questo strano strumento nella quale Lindsey Cooper è stata maestra ed è stata una dei personaggi guida di varie esperienze musicali di quegli anni. Purtroppo ha dovuto ritirarsi prematuramente per questioni di salute ed è stata una perdita notevole, ma era in quegli anni il braccio destro in sostanza nell'orchestra. Ascoltiamo, diciamo che tutto quello che accade in questa programmazione, con questi vari brani, con queste varie atmosfere, ha un'intenzione di espressione musicale, diciamo, quindi c'è l'assolo di chitarra alla rock, europeo, c'è l'assolo di sax classico, di jazz, e poi anche appunto la voce, come dire, nuda di Phil Minton, oltre alla voce recitata, appunto, soprattutto recitata di Kate Westbrook. Ascoltiamo adesso una parte piuttosto lunga presa da queste registrazioni, piuttosto lungo perché vale la pena ascoltare, goderselo questo lavoro magnifico. la noche me copia en todas sus estrellas. Quiero de pie sin verme y hormigos y pelos. Aunque sepa veramente struggente, con i testi di García Lorca. La voce di Phil Minton è di una potenza evocativa poderosa. E tra l'altro in questa versione dell'80, questa registrazione dal vivo, è registrata, viene eseguita in una tonalità superiore a quella che poi sarà la tonalità usata nella versione dell'82, quella diciamo discografica. E quindi questa per esempio è una delle ragioni per cui la preferisco a questa versione. Lo ricordo, era anche l'ultimo ascolto per oggi, era l'orchestra di Mike Westbrook con questo progetto magnifico, The Cortege, live alla BBC nel 1980, uscito per la Cadillac.